Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, siete tornati, avevamo un appuntamento insieme, sono le 11 e quasi 9. Abbiamo Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, ci siamo tutti. E allora voi fate finta di essere allo stadio, perché oggi assisteremo ad un match infuocato, fumatori contro ex fumatori. Abbiamo una formazione, un arbitro, un commentatore, ci siamo attrezzati, insomma. Io forse farò da guardialine, con l'unica differenza che il pubblico è invitato a mescolarsi con i giocatori, tra virgolette, dicendo la sua. Quindi, se volete tifare, fatelo sostenendo con le vostre storie, i vostri interventi, i vostri beniamini. Siete fumatori e volete dirci perché non volete proprio smettere. 800 24 0024. Lo stesso numero vale per chi vuole dire e vuole raccontarci perché e come è riuscito a smettere. Però io vorrei anche coinvolgere quelli che metterei in panchina, quindi chi sta pensando di fare il grande passo ma è ancora indeciso sul da farsi, e chi ci ha provato ed è ricascato e non sa se gettare la spugna definitivamente oppure ritentarci. I nostri ospiti di oggi, abbiamo il professor Stefano Centanni. Professore, buongiorno. Buongiorno. Il professor Centanni è direttore della clinica pneumologica all'ospedale San Paolo di Milano e presidente della SIMER. La SIMER è la Società Italiana di Medicina Respiratoria. Anno del respiro? Anno del respiro, 2009 anno del respiro. Quindi un anno in cui stiamo cercando evidentemente di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle grandi problematiche delle malattie respiratorie. E molte di queste malattie, la bronchite cronica, l'enfisema, il cancro del polmone, sono malattie certamente fumo correlate, cioè che dipendono in larga misura dal fumo di sigaretta. Però non poteva certo mancare il nostro, ormai dico nostro perché lo conosciamo da anni, con lui abbiamo fatto un reality, lui è moderatore del nostro forum, che vi ricordo è sempre attivo, cercatelo sul sito di Radio 24, non è facile, non è difficile, potete partecipare anche voi. È il dottor Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori e direttore del Centro Antifumo. Dottor Boffi, bentornato. Buongiorno, grazie Nicoletta. Allora, io direi di andare a vedere un po' come sta andando il campionato. Ci aiuta la dottoressa Pacifici, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dirigente di ricerca dell'osservatorio fumo, alcol e droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, iniziamo con un aggiornamento dell'ultimo anno. Che dati abbiamo, dottoressa? Beh, i fumatori in Italia sono 13 milioni, sono il 25,4% della popolazione. Questo significa che ogni 4 persone abbiamo un fumatore. E di questi fumatori il 29% sono uomini, il 22% sono donne, quindi ancora un numero di fumatori maschi maggiore di fumatrici, anche se il gap si sta sempre di più assottigliando. E comunque, rispetto agli andamenti negli ultimi anni, possiamo dire che dopo una fase di continua diminuzione della prevalenza di fumatori, che si è registrata diciamo negli ultimi 6-7 anni, purtroppo in quest'ultimo anno, nel 2009, abbiamo avuto un incremento di fumatori del 3,4%. Insomma, avevamo avuto a circa 2 milioni di fumatori in più rispetto all'anno precedente. Dottoressa Pacifici, insomma, abbiamo avuto una diminuzione per l'effetto Sirchia. E poi calma piatta, insomma sembra che detta così la legge Sirchia sia riuscita a far fare il passo a chi era già, no, propenso a smettere? Sì, questo è verosimile, infatti direi che i divieti come le scritte, alle quali presto si aggiungeranno anche delle immagini molto disincentivanti che riporteranno diciamo i gravi danni provocati sulla salute, sicuramente agiscono su chi ha già maturato la convinzione di dover cambiare lo stile di vita. Peraltro le motivazioni principali comunque che oggi inducono un fumatore a smettere sono la consapevolezza dei danni prodotti dal fumo, che è sempre maggiore anche grazie diciamo agli interventi dei media, e l'insorgenza di patologie ovviamente. Però rispetto agli stimoli relativi a cambiare lo stile di vita. Io direi che invece è importante che un ruolo determinante ce l'hanno proprio i medici di base, che purtroppo invece ancora non esercitano questa loro potenzialità, e infatti soltanto il 20% dei fumatori, oggi attualmente fumatori, è capitato, al 20% solo è capitato diciamo di ricevere un invito nell'ultimo anno, un suggerimento da parte del proprio medico spontaneo, quindi un suggerimento spontaneo senza... Vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Il vostro medico di famiglia vi ha chiesto se fumate, vi ha aiutato a smettere, 824 0024, ma professor Centanni, qualche cosa si sta muovendo. Voi cercate un po' di educarli, di sensibilizzare le nuove leve a diventare sostenitori. Sì, assolutamente sì. Per esempio, io insegno malattie respiratorie all'Università degli Studi di Milano e nell'offerta didattica del San Paolo, che riguarda ovviamente studenti di medicina ma anche studenti di altri corsi di laurea, fisioterapisti, infermieri e quant'altro, noi facciamo didattica non formale per gli studenti, quindi questo vuol dire non la classica lezione ex cattedra, ma proprio dibattito, interattività e quant'altro sul ruolo etico di qualsiasi operatore sanitario nei confronti della lotta al tabagismo, considerando ovviamente il fumo di sigaretta il principale fattore di rischio evitabile del mondo contemporaneo. Però volevo aggiungere una cosa sul coinvolgimento dei medici di base. Quello che diceva la dottoressa è vero, però anche la medicina di base si sta muovendo su questo argomento. Proprio settimana prossima a Roma avremo un congresso importante su base nazionale sulla lotta al fumo di sigaretta, sul tabagismo, e è promossa appunto dalla Simmer, in cui ci sarà una larga partecipazione anche di medici di medicina generale, perché ovviamente anche loro sono sensibili a questo problema. Abbiamo dei dati però, dottoressa Pacifici, che ci dicono come, no, chi riesce a smettere nel lungo periodo. Spesso noi diciamo e pensiamo chi vuole farcela ce la fa da solo, quindi si smette di fumare quando improvvisamente per una sorta di... uno dice basta, e capita anche a grandi fumatori, ma i dati fotografano, dottoressa Pacifici, una situazione un po' diversa da quello che generalmente pensiamo noi. Che cosa dicono? Ma intanto bisogna fare una premessa: il tabagismo è una patologia cronica recidivante, quindi che cosa significa? Che il soggetto che vuole smettere di fumare, tenta di smettere, smette, ma è soggetta a delle ricadute, è abbastanza fisiologico. Sì. Però i dati ci dicono che nell'ultimo anno il 30% dei fumatori ha tentato di smettere di fumare, ma con scarsi risultati. Ossia riuscendo a smettere per qualche mese quando andava bene, qualche settimana, addirittura per pochi giorni. È dimostrato scientificamente, con dei trials clinici molto precisi e puntuali, che la probabilità di successo è legata, quindi è molto più alta, se ci si rivolge a degli specialisti. Ora, in Italia forse non tutti sanno o non sanno abbastanza bene che ci sono oltre 360 servizi territoriali, cioè i famosi centri antifumo, che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Dottoressa Pacifici, noi abbiamo l'elenco dei centri antifumo, quindi gli ascoltatori di Radio 24 che seguono Essere Benessere, o quelli che navigano sul sito, hanno proprio a disposizione questo elenco che il dottor Boffi anche aggiorna, ma io voglio, raccolgo quindi il suo stimolo, ricordare il numero verde 800 55 40 88, giusto dottoressa Pacifici? Niente. Che permette a chi vuole di essere aiutato con un servizio di counseling e con anche l'indicazione dei centri antifumo, che sono assolutamente da sfruttare, dottor Boffi. Sì, con intelligenza, con furbizia, il fine non giustifica i mezzi, per cui anche in campo di prevenzione basta col dilettantismo, per cui c'è il riconoscimento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità dei centri antifumo che funzionano, che sono fondamentalmente quelli ospedalieri o anche i CERT, e quindi insomma centri validati dove si seguono le linee guida che ci sono, assolutamente utili per aiutare i fumatori che vogliono smettere, perché ogni fumatore è diverso, ognuno deve trovare il suo metodo, però non in maniera così un po' artistica, ma valendosi di strumenti farmacologici o psicologici o entrambi, che possono tranquillamente far smettere di fumare senza drammi. Perché è una patologia cronica recidivante? Possiamo, diciamo, definirla così, se volessimo, sì, definirla, sì, come una malattia? Io ho una parola che rifiuto sempre, Nicoletta lo sa, è il termine vizio legato al fumo, perché dà una connotazione etica e anche poi il senso al contrario della trasgressione quando si continua a fumare. Però chiamarla patologia o dipendenza, ecco, se vogliamo essere un po' più soft, penso che sia un'affermazione assolutamente corretta dal punto di vista medico. Il fumatore è intelligente, non deve assolutamente offendersi, ma prendere atto che ha un problema ed è furbo ed è astuto rivolgersi a persone che possono aiutarci a risolvere un problema che purtroppo, dispiace dirlo, ma accorcia mediamente la nostra vita di 10 anni. Dottoressa Pacifici, grazie per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi, buona giornata. Allora, a proposito di recidive. Sono tue le sigarette? No, erano già lì quando mi sono seduto. Ah, tu non fumi, no? No. No, ho smesso. Grazie al cielo, neanch'io. Un taglio netto. Basta veleno, ormai sono 25 anni. Ah, mio Dio. Finito. Sono pieno di energie. Oh, io sono rinato. Poi da quando ho smesso, insomma, tutto è più... Sì, sì, è tutto più a fuoco, pazzesco, è vero. È vero? Per me è uguale. Sai cosa? Il bello è quando si smette è che avendo smesso, posso anche fumarne una. Perché ho smesso. Capisci? Un fatto ornamentale, non è mica... Non l'aspiro nemmeno. Perché non mi tieni compagnia? Perché no? Salute, eh? Sì, adesso hai capito cosa vuol dire smettere. Caffè, sigarette, questo sì, che è un matrimonio. Eh sì, è un vero matrimonio. Questo era tratto dal film Coffee and Cigarette, ma io direi di far scendere i nostri partecipanti per dalla squadra dei fumatori. Aggiungerei, ma ce lo dirà di lui, incalliti, il professor Filippo Daverio. Buongiorno, professore. Buongiorno. Che bella voce piena. Sì, no, mi spiace dover sostenere una tesi così antipatica nei confronti di un paese così per bene come l'Italia, che ho avuto il piacere di vedere oggi mattina anche il Presidente del Consiglio che brandisce un crocifisso per dire che Strasburgo ha torto. Quindi mi muovo in un paese italiano dove il perbenismo morale è uno dei valori primari. Io purtroppo vengo da una cultura molto laica, giacobina e nordica, quindi mi sento imbarazzato a difendere quelli che fumano in un paese dove è così per bene non fumare. Senta, ma noi non dobbiamo... Come in America. Lei non deve difendere quelli che fumano, professore. Io penso che sia utile il suo contributo, la sua testimonianza, anche perché conoscendo di più i fumatori, io penso che i medici riescano anche a parlargli in modo più efficace e più corretto. Poi ciascuno è responsabile, no? Siamo tutti maggiorenni vaccinati. Lei da quanto fuma, professore? Ma io fumo non esageratamente, credo da quando ho 18 anni. Sì. Sì. Mi sento un po' offeso quando mi chiamano tabagista, perché bevo cognac da quando ne ho 17 e champagne da quando ne ho 5, e se uno mi dicesse che sono alcolista, gli darei una ciabattata. Professor Centanni. Sì. Lei, tra l'altro... Coinvolgo lei perché lei è stato fumatore. Sì, sono stato fumatore fino a 21 anni fa, quando è nata la mia prima figlia. Poi ho deciso di smettere per fare, credo, un investimento sulla mia salute, auspicabilmente anche sul futuro dei miei figli, insomma. Il professor Daverio dice: mi offendo quando mi danno del tabagista. No, io credo anche che... voi medici dovete in qualche modo, no? Come state facendo voi all'università, usare delle parole diverse, degli approcci diversi. Sì, ma io, guardi, con molta franchezza non credo che definire una persona tabagista abbia alcunché di positivo. Io credo che il professor Daverio, che è persona di grande cultura, di grande intelligenza, certamente riconoscerà che il fumo di sigaretta è un fondamentale fattore di rischio per la salute pubblica. Quindi io non credo che si debba limitare, non è limitando la libertà personale che si ottengono i risultati, ma condividendo questo aspetto. Quindi io penso che tutti quanti che riconosciamo il fumo come principale fattore di rischio evitabile, dobbiamo in qualche maniera concorrere a evitare che soprattutto i giovani inizino a fumare, perché il vero problema è iniziare a fumare, considerando che poi smettere evidentemente è molto difficile. Più difficile. Quindi quello che quello che credo si possa chiedere a un fumatore, mi pare di capire, incallito come il professor D'Averio, è di non difendere pubblicamente questa libertà, perché questa non è una libertà personale. Voglio dire, non fumare non è un limite alla libertà personale, è un aiuto che si può dare, importante, soprattutto ai giovani. Professor D'Averio. Adesso, intanto, non mi piace essere chiamato incallito. Che già... sarà incallito il medico, incallito antifumatore, cos'è questo? Vede, la cosa dove... io sono felice, ho un figlio di 24 anni, sono felicissimo che non fumi, è chiaro. Capita, però, professore, spesso. Professore, ha ragione. Emendo l'incallito. Esatto, no, però... No, no, ma ha capito... Non, sì, non mi certo, no, stiamo... Ma ne è scappata automatica questa cosa, perché... Nella crociata antifumo c'è un valore moralistico da bassa sacrestia italica che combatte le libertà di comportamento degli altri, che è un dato stabile, che è il vero motivo per il quale io non riesco a smettere di fumare. Ecco, vede... l'idea di cadere fra un diventare bigotto anch'io, ma piuttosto tiro le cuoia di infarto domani mattina. Professor D'Averio, volevo chiederle prima scusi, di... Scusi, sì. Una sola considerazione. Però, professore, lei è contento che suo figlio non fumi? Ma certamente. Ma a me va bene così, grazie. No, ma mio figlio ha anche fatto una scelta, se n'è anche andato dall'Italia. Certo. Beh, professore. Io non me ne posso più andare, se no me ne andrei. Perché questo è un paese bigotto, sul serio. Cioè, allora, la questione sta in questi termini. Sì. A me va benissimo che il fumo è un pericolo privato, sul quale non c'è dubbio. Il mio amico, bravissimo, chirurgo, di polmoni, quindi si occupa di tumori, che un giorno mi disse così in modo divertito, dice, guarda, devi tenere conto che il fumo è la migliore delle droghe esistenti. Uno, perché non è vietata, ti rende più svegli, aumenta la capacità di lavoro, la percezione, è un unico difetto, abbrevia la vita. E questo è assolutamente vero. Allora, certo. Questa posizione laica mi interessa già di più. Ecco, stiamo però, su questa posizione laica, professor D'Averio. Volevo chiederle, lei riesce, ha modificato in qualche modo il suo stile di fumatore, per dire, evita di fumare quando accanto a dei ragazzini, dei bambini, insomma, evita che qualcuno si respiri il suo fumo passivo, ha questa attenzione in più? Luoghi abitativi alla Charles Dickens, no? Quelli dove siamo in 31 in una stanza, sì, con i bambini insieme ai vecchi, e allora sì, certo che se li fumo c'è già l'odore anche degli esseri umani, posso generare una catastrofe. Una catastrofe. Però siccome vivo in una casa che è l'unico grande vantaggio che mi dà l'umanità, molto grande, l'idea di fumare in una stanza che nell'altra stanza ci sia un bambino che passi, dopo che il bambino ha fatto una lunga passeggiata in Corso Italia usando tubi di scappamento, mi sembra una roba. Su questo il dottor Boffi sicuramente avrà qualche cosa da dire, ma io voglio salutare il professor D'Averio. Ricordo che potete vederlo anche, lo stiamo vedendo su Rai 3, con Passepartout, vero? La domenica. Allora, se poi casomai decidesse mai di smettere, io l'aspetto qui. Solo una raccomandazione per capire la mia posizione. Grazie, professore. 20 anni fa si moriva di alcolismo perché si beveva all'infinito. Io vorrei che un giorno si possa fumare senza finire nel tabagismo. L'alcol portava all'alcolismo in una situazione sociale molto specifica e trasversale. Il tabagismo uguale oggi. Tabagismo e fumo non sono la stessa cosa, così come alcolismo e alcol non sono. Professore, su questo parleremo di un'altra puntata. Io devo salutarla perché abbiamo i mercati che ci aspettano. Tra poco poi ci raggiungerà Ricky Gianco. Ricky, sei già in linea? Sono in linea e ascolto. Hai ascoltato tutto, quindi hai tanti spunti da questa chiacchierata di cui parleremo dopo i mercati e il meteo. 824 0024 e poi la parola ai nostri ascoltatori. Essere e benessere. Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando è l'ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po' più lontano. Dalla coscienza di Zeno. Ricky, ciao. Buongiorno a tutti, ciao. Che bello averti con noi, tu hai smesso. Grazie, sì, io ho smesso, anche se devo dire che non solo seguo e stimo Daverio, ma mi è piaciuto molto anche quello che ha detto. Concordo, anche se io ho smesso. Concordi. Professor Centanni, lei invece... No, io non concordo perché credo che innanzitutto, come dire, la bandiera del laicismo possa essere sventolata per ben altri ideali che non sono il fumo di sigaretta, e perché credo che, come dire, il trincerarsi dietro la libertà personale di fumare, considerando, stressando molto il concetto di personale, è vero, è una libertà personale, però poi il danno dell'individuo si ripercuote sulla tutta la società. Società è quello, famiglia, che, come ci sì. scrivono alcuni SMS, e società. Ma Ricky, quindi, io volevo chiederti se ti è mai venuta voglia di riaccendere la sigaretta, perché e che cosa hai fatto per trattenerti, perché vogliamo dare anche dei consigli pratici ai nostri ascoltatori. E intanto invito Paolo da Novara. Paolo, buongiorno, in linea, sentiamo cosa ci racconta però Ricky Gianco. Allora, intanto io credo che la bandiera, come la chiama il professore, di laicismo debba essere usato sempre e in ogni cosa. Chiuso questa parentesi, io sono abbastanza, credo, un tipo anomalo, perché io ho fumato per 40 anni, fumavo 20-30 sigarette al giorno, poi a un certo punto ho deciso di smettere. E ho deciso di smettere perché per la voce, per esempio, per il canto non mi ha procurato mai nulla, non mi ha mai dato fastidio. L'unico problema è che chiaramente ti lascia la parte faringe, trachea, eccetera, sempre infiammato. Per cui come comincia a far freddo, come cominciano ad arrivare le influenze, io ero sempre malato. E dovendo cantare è un po' un problema. Non solo, ma poi mi sembrava stupido. Io mi ricordo che nel mese di novembre del 2003 io ho avuto raffreddore, mal di gola, faringite, mi sono curato una settimana senza fumare, facendo le inalazioni, eccetera, sono guarito, ho ripreso a lavorare, ho ripreso a fumare, una settimana, 10 giorni dopo sono ricaduto nella stessa cosa. Quando questa cosa è successa la terza volta, nello spazio di un mese, a quel punto ho detto, oh, i casi sono due, o smetti di fumare. Ci sei dato con a tu, sì, per tu, ti sei parlato, o smetti di fumare? O smetti di fumare, oppure smetti di curarti. Certo. Ti ammali e aspetti di guarire, così non puoi continuare. Senti, quindi il tuo ultimo, nuovissimo, dovrà uscire il 13 novembre, CD di Santa Ragione, tu dici che la voce è uguale, ma magari avrà una voce ancora più bella? No, questo assolutamente no. L'unica cosa che sulla quale invece mi sono ricreduto, quando mi dicevano, io canto da quando sono un bambino praticamente, sì, fiato ne ho sempre avuto tanto, anche perché ho un esercizio continuo, diciamo. Però mi dicevano, se smetti di fumare vedrai quanto fiato ti viene di più. Io dicevo, ma non scherziamo, capirai. Beh, dopo un po' di mesi che avevo smesso di fumare, io adesso delle frasi musicali che prima facevo respirando due, a volte tre volte, prendo due o tre respiri, adesso li faccio con uno solo. Ecco, sono quindi rimasto veramente... Nell'anno del respiro è un contributo di Ricky Gianco proprio per il respiro. Dottor Boffi. Sì, complimenti a Ricky Gianco. Mi viene in mente la canzone, la bellissima canzone di Battiato, La cura. Mi piace il concetto che ha detto Ricky adesso, cioè smettere di fumare è la migliore cura. Grazie a Ricky Gianco. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Paolo da Novara, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo un po' raccontare la mia storia. Io semplicemente ho cominciato a fumare a 11 anni. Adesso ne ho 26 e ho smesso. Sì. Imitando mio padre, perché trovavo le sigarette in casa, perché era trasgressivo, eccetera. Poi negli anni ci ho sempre un po' combattuto con la sigaretta, ho smesso diverse volte, ho fumato tante ultime sigarette al mare d'estate, eccetera. E poi a un certo punto, niente, semplicemente ho smesso di prendere di petto l'oggetto sigaretta. Cioè era finché l'ho affrontato come un nemico diretto. Sì. Non sono poi riuscito più a contrastarlo, perché comunque è un nemico forte, cioè... E abbiamo anche dei messaggi, un marketing molto forte, Paolo. Ma poi a parte quello, è proprio una questione di crescita personale. Secondo me uno deve imparare a prendersi cura di se stesso, a volersi bene. E senza neanche poi rendersene conto, a un certo punto non cerca più quel tipo di di, non so, di consolazione. Di, adesso Paolo, di... dici i vantaggi. Che ma io... i vantaggi è che comunque, vabbè, io sono anche parecchio sovrappeso, quindi ho sempre vissuto un po' questo dualismo, o dimagrisco o smetto di fumare. E io ho smesso di fumare, sono comunque ancora sui 120 kg per 1,80 m, e posso tranquillamente dire che ho fatto sicuramente la scelta vincente. Sicuramente, professor Centanni, che dice? Perché ha poca, un passetto alla volta, ha tolto il fumo, adesso toglierà qualche chilo in più. Beh, questo potrebbe essere davvero un bel lavoro, insomma, se dopo aver vinto questa, la sigaretta riuscisse anche a perdere qualche chilo, credo che avrebbe fatto un grande investimento. Bravo Paolo. Andiamo a Nicolina, c'è una Nicolina a Milano, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, l'ascolto sempre, complimenti. Grazie. Nicolina, fumatrice o ex fumatrice? Ex fumatrice. Come ha fatto? Ho detto basta. Dall'oggi al domani? Senza tanti... Oddio, una cosa c'è stata. Cioè, la prima volta che ho smesso... Perché io ho smesso due volte di fumare. Ho smesso la prima volta, sono stata 9 anni, perché era morto mio fratello di cancro ai polmoni. E ho smesso. L'immagino. 9 anni e poi ho ripreso, ho visto le sigarette dove lavoravo, il negozio dove lavoravo, ho visto le sigarette del mio titolare sera prima di chiudere il negozio ho fumato la sigaretta, è stato un disastro, perché ho ripreso per 3 anni, sì. Dopodiché ho cambiato casa e ho promesso a mio marito che avrei smesso di nuovo. Quindi ha smesso un po' per una promessa e diciamocelo Nicolina, anche per amore. Sì, d'altra parte è un gesto d'amore che facciamo per noi stessi. Nicolina, io la ringrazio, complimenti, buona giornata. Grazie, buongiorno. Voglio che mi rispondiate prima di salutare il prossimo ospite, che a me piace davvero un sacco, che voglio che rispondiate a questo sms. Sono un fumatore, in media 20 sigarette al giorno. Da 2 settimane mi sto limitando a 5 al giorno. Qui viene la fase più dura. Allora, la mia domanda, è il decremento del numero una buona strada o è meglio il taglio netto e andare subito a zero? Dottor Boffi. Allora, intanto, se la giochi bene. È un'azione pericolosa, però importante. No? Se devo fare l'arbitro, tengo a dire che io non sto, se devo essere un arbitro, devo essere imparziale, quindi non sto dalla parte dei non fumatori e degli ex fumatori, ma io sono anche dalla parte dei fumatori, cominciando con una buona e giusta informazione. La domanda classica è meglio ridurre o meglio smettere di botto? È meglio 9 volte su 10 è meglio smettere di botto. Stabilire una data... farsi magari aiutare al medico di famiglia o dal medico del centro di fumo, però dare un significato a quel giorno che è uno dei giorni più importanti della nostra vita, se riusciamo a smettere di fumare per sempre. Però ci sono, come dicevo, un 10% di persone che riescono a smettere solo riducendo, come l'ascoltatore. Abbiamo... E questo è un percorso un po' difficilottino, che non deve essere lunghissimo, perché sennò sfinisce, però se uno riesce ad assestarsi bene su un numero di sigarette almeno drasticamente minore a quello che si aveva precedentemente, quindi meno della metà, poi si può fare un passo successivo, perché l'obiettivo finale deve essere sempre la vetta di questa famosa salita, che è la cessazione definitiva, perché la riduzione nel lungo termine purtroppo non paga, cioè fa meno male fumare poche sigarette, solo che è molto difficile mantenerla per sempre. È una settimana che non fumo, ci scrive Roberto da Bergamo, e già mi odiano tutti, sono irritante. Professor Centanni, capita? Capita, ma non a tutti. Non a tutti, ma comunque non credo sia un grandissimo problema. È meglio essere un pochettino irritanti per gli altri, ma liberi dal fumo per se stessi, quindi resista, vedrà che poi l'irritabilità le passerà e tornerà a essere una persona gradevole e per giunta anche maggiormente libera. Voglio dire, volevo tenervelo come sorpresa, ma invece ve lo saluto già adesso, perché io sono contentissima di averlo qui e lo vedrò anche a Milano, perché finalmente ritorna al Carcano a dicembre. Alessandro Haber, ciao Alessandro. Eccoci qua, come va? Io bene. Io sto fumando tranquillamente in attesa di parlare con voi. Va bene, allora noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi conversazione con Alessandro Haber, professor Centanni e dottor Boffi, ma naturalmente intervenite anche voi. 800 24 0024, subito dopo il traffico. Essere e benessere. Alessandro, il professor Centanni mi diceva intanto che sentivamo le informazioni sul traffico, che lui ti apprezza molto. Grazie. Come e gli piacerebbe molto ad farti una proposta, Alessandro. Io sono un suo ammiratore, la trovo un attore veramente molto bravo. Diamoci del tu. Diamoci del tu, perfetto, sono molto lieto. Sarebbe molto bello avere un testimonial come te nella lotta al fumo di sigaretta. Ma io posso anche fare il testimonial, basta che mi lasciate fumare. Cioè, No, l'ho capito, voglio so dire. È una contraddizione. No, ma vedi, il problema grosso che abbiamo noi è che purtroppo il fumo di sigaretta è associato sempre a un modello positivo e questo attrae i giovani in maniera importante. Sì. E allora qualche volta credo ci voglia un pochettino di cautela, no? Perché prima il professor Daveri accennava all'etilismo, ma l'etilismo è associato a un modello negativo, modello perdente, l'uomo, no? Anche nella filmografia classica di Hollywood, no? L'etilista è l'uomo sconfitto dalla vita, invece il fumatore è l'uomo forte che conquista, certo. Su questo bisogna stare un po' attenti, soprattutto per i giovani. Beh, una bella proposta, Alessandro. No, ma sono d'accordo, cioè, se io potessi salvare il mondo lo farei, ma dato che credo che non sia reale questa cosa, nel senso che i vizi ci sono sempre stati. Io credo che adesso non voglio fare quello che professo, che dice delle verità o delle nuove. Cioè, io credo che poi ognuno deve gestire la propria vita. Come, cioè, io sono un po' dell'idea che si muore da tutte le parti, di malattie, si muore di meningite, per l'alcol, per i crolli delle scuole, delle cose allucinanti, la terra che viene disossata, dissanguata, per il clima, per colpa nostra. Noi facciamo harakiri alla terra, il mondo intero adesso si sta preoccupando, ma abbiamo visto quello che succede, come i climi sono cambiati, quelle sono le grandi tragedie. Voglio dire. Sono anche il fumo, certamente. Anche il fumo, anche la sigaretta, Alessandro. Ma a me piace fumare. Senti. A me, io ti spiego, io ho constatato personalmente, ho la fortuna di avere un fisico che mi permette di fumare. Io ogni anno faccio un check e quando io, che sono 50 anni, che 47 anni che fumo, dicono: no, non è possibile, signor Haber, ha bisogno di un ragazzino. Mia madre ride, mio padre ha smesso a 50 anni. Senti, perché... Alessandro, volevo approfittare di te perché i minuti corrono, io intanto ne approfitto a grandi mani, perché sicuramente chi fuma fuma anche in macchina, e il dottor Boffi, non per farti cambiare idea, ma intanto noi siamo qua, il dottor Boffi ha dei dati interessanti. Noi siamo in una trasmissione di salute, io non voglio stare nella parte degli ex, né dalla parte dei fumatori né di che idee, però i dati ci sono e li mettiamo a disposizione. Dottor Boffi, anche per Alessandro Haber, che magari poi un domani, chissà. Conoscere per decidere. Sono contento che Alessandro abbia una capacità respiratoria nella norma, è assolutamente questo. È giusto farsi controllare. Il fumatore almeno che si faccia controllare. Faccia i controlli, possiamo dire una volta all'anno, okay. Esattamente. Però che si informi. Che guardi attorno, ecco, le novità scientifiche. Questa ho provato, ho pagato anche per smettere. Soltanto tre giorni, non ce l'ho fatta. Comunque ci sono anche degli strumenti nuovi, farmacologici. Alessandro, se e quando lei vorrà provarci, comunque... Puoi dargli del tuo anche tu, va che ti fa amico. Ma benissimo, Alessandro. Sì, quando vuoi una sfida. Allora, andiamo per ai me... dati, perché io ho Renato Pozzetto in arrivo. Sì, no, ecco, appunto, dicevo, conosce per decidere, no? Ecco, il fumo inquina, diceva anche Daverio, ma il nipotino ha passato la giornata nelle strade. Non è così, perché l'inquinamento, certo, è un problema, stiamo distruggendo la terra, la stiamo inquinando, però... nei nostri stili di vita, i nostri comportamenti, le nostre abitazioni, le nostre macchine, siamo capaci, noi fumatori, chi fuma, di inquinare tantissimo. Questi dati recentissimi dell'Istituto dei Tumori, ricerca assolutamente attendibile, con una sola sigaretta in un'autovettura con condizionamento in funzione, finestrino, l'autofumatore chiuso, le polveri sottili PM2.5 700 microgrammi, quindi 30 volte più dell'inquinamento fuori e 10 volte anche col finestrino aperto. Non esiste nulla al chiuso che inquini più del fumo. Alessandro, sì. questa vabbè, prendiamo nota anche di questa e poi intanto ci facciamo dei ragionamenti. no? Nel corso. Ma... intanto ci diamo appuntamento anche a Milano, che verremo a vederti al Carcano. Sì, è uno spettacolo meraviglioso. Sì. Porti Chekhov, che ha fatto una cosa anche sul fumo, no? Sì, sì, il tabacco fa male. Il tabacco fa male. Non fa una piega, cioè, tutto torna, vedi? Vedi, vedi che secondo me c'è un destino. Tu vai al Carcano e fai Chekhov dal 9 al 20 di dicembre, quindi. E parli di Chekhov che ha fatto una cosa sul fumo e il tabacco, ma non lo so. Mi puzza questa cosa qua. Ma io faccio dei personaggi, cioè io mi trovo bene lì sopra, sul palcoscenico, davanti a una macchina da presa. Nella vita sono disordinato, non riesco a essere reale. Nella vita, insomma, non ho mai curato il mio aspetto umano. Ho sempre curato, sai, questa sembra strana questa cosa, però ho sempre curato più il mio aspetto artistico. È strana questa cosa, però è così, purtroppo è una malattia. È una malattia. Ecco, è difficile. Io direi, Alessandro, possiamo salutarti dicendo: è difficile smettere, meglio non iniziare? Questo ecco. Sicuramente si sconsiglia comunque di fumare. Si sconsiglia, ecco, quindi anche da chi è fumatore e si anche trova... Perché, ecco. Anche perché Alessandro Haber forse non sa che purtroppo la nicotina è la sostanza che dà maggior dipendenza al mondo, più dell'eroina, più della cocaina, più dell'hashish e della marijuana, quindi questo è molto importante. 5 persone su 10, 6 persone su 10 di quelli che una volta nella vita si mettono in bocca una sigaretta per ridere, per sentirsi grandi, diventa fumatore abituale. Quindi non iniziamo, diciamolo anche ai nostri figli. Un abbraccio ad Alessandro Haber, che vedremo presto. Renato Pozzetto. Renato, ciao Alessandro. Eccolo. Ciao Renato, come stai? Bene, bene, tu? Ci siamo incontrati l'altro giorno al ristorante. infatti. Al ristorante, per radio, vedi che destino. Speriamo che Renato contagi anche Alessandro. Renato. Vabbè. Ciao Alessandro, smetti di fumare, tac. Tac. Perché quel tac? Ho letto su internet un po' di blog, ma perché quel tac? Ma non lo so, era un modo... è stata un'invenzione per un film, un vecchio film. E che è rimasta nella memoria del pubblico, anche perché il film l'hanno trasmesso un sacco di volte. Allora, visto che qualcuno lo usava già nella comunicazione, quando mi hanno proposto di fare la campagna del fumo, l'ho infilato là, infatti insomma ho avuto successo. Allora, Renato Pozzetto, io da ragazzino, da piccola devo confessare che ero innamoratissima di lui, così, vabbè, quindi chiudo con questa confessione, perché era proprio piacere. Eh sì, vabbè, ormai mi sono tolta questo, però allora già, quindi da una sua innamorata mi chiuda con un messaggio questa puntata. Abbiamo proprio 30 secondi, testimonial per antifumo, per smettere di fumare, ce la può fare. Le do la parola, 30 secondi, e saluto e chiudo in bellezza la trasmissione. Ma io sono un testimone vivente che si può smettere di fumare. Io fumavo, 25 anni fa ho smesso, ho lottato un po', però insomma credo di aver fatto bene, anche perché vedo in giro troppa gente, anche tanti amici, tanti conoscenti che si stanno rovinando la vita, ecco. Grazie Renato Pozzetto. Prego. Buona ciao, giornata. Ciao. Al professor Centanni e al dottor Boffi. Noi siamo qua, andate sul nostro forum, il moderatore è il dottor Boffi. Vi saluto e vi aspetto domani. Grazie, buona giornata. Radio 24. La passione si sente.